E allora, bella per tutti e tutte, Region Air 87.9, la radio degli studenti medici. Siamo qui per la quinta volta in onda dalle 4 alle 5. Poi con la ciuna. I woke up this morning, year round for my shoes, a bag of dew, whoa, walking through the world. Up this morning, year round for my shoes. But you know about it, I got deed of walking through. Ed eccoci sì su Radio Onda Rossa, gli 87.9, stiamo ascoltando Roots of Blues, Robert Johnson. È un pezzo blues, il blues è il genere per eccellenza degli immigrati. Infatti oggi, questo pomeriggio, andremo a parlare di immigrazione, un tema più che, insomma, primo all'ordine del giorno dei nostri tempi, e in particolare andremo a parlare della seconda generazione dei migranti, ossia dei giovani che migrano, dei giovani che vengono in Italia a studiare. Parleremo del 30% della Gelmini, di questa regola che, insomma, nelle scuole non può essere superato il tetto del 30% di immigrati, che, insomma, nessuno se n'è accorto, ma è iniziato, è entrato in vigore qui adesso nel 2010, e perciò parleremo di questi argomenti che più ci toccano, e continuiamo ad ascoltare Robert Johnson. E l'immigrazione, perché ne vogliamo parlare? Perché pensiamo che, insomma, sia vista un po' in maniera strana e sbagliata al giorno d'oggi. Uno dice l'immigrato, bisogna per forza regolare i flussi migratori, i CIE, i centri di identificazione ed espulsione, per regolare appunto i flussi di immigrati che arrivano in Italia. Ma noi pensiamo che bisogna fare un discorso più ampio. Prima di tutto, infatti, noi siamo cittadini del mondo più che cittadini di una nazione. Il mondo è di tutti, la terra è nostra, è dell'umanità, e è un discorso veramente assurdo da fare, insomma, quello di limitare la circolazione delle persone tra nazione e nazione, no? Soprattutto in quest'ultimo periodo, diciamo, quando ci dicono che siamo invasi da immigrati, quando semplicemente i dati ci parlano che gli immigrati producono praticamente il 9,2% del PIL italiano. Quindi se noi finanziassimo, diciamo, più, se portassimo più risorse sugli immigrati, sarebbe una crescita per il nostro paese. Invece dalla nostra politica viene visto in maniera diversa. La Lega giusto ieri diceva che siamo in un periodo gravissimo, abbiamo le invasioni barbariche tra un po', mentre non è assolutamente così. E noi vediamo questa cosa nella nostra realtà di tutti i giorni, nelle nostre scuole, dove ci sono alla fine pochissimi ragazzi immigrati, o soprattutto di queste seconde generazioni, cioè i ragazzi che sono nati in Italia, che sono a tutti gli effetti italiani, soltanto che semplicemente avendo i genitori immigrati non hanno la cittadinanza italiana, devono aspettare 18 anni, devono fare un esame che non è soltanto di lingua italiana ma è anche di storia dell'Italia, roba che un ragazzo immigrato è più preparato di noi su argomenti della storia italiana per poter passare questo esame e per poter dimostrare a tutti gli effetti di essere italiano. Anche nelle scuole il tetto, il famoso tetto di cui ha parlato la Gelmini dall'anno scorso, il tetto del 30% di immigrati che possono essere presenti nelle scuole, vediamo come questo tetto sia una cosa assurda proprio dal punto di vista del morale, esatto, e soprattutto perché diciamo le scuole in cui complessivamente la quota degli alunni immigrati supera il 30% sono circa 470 nel caso delle primarie e 140 per le secondarie di primo grado, quindi vediamo come sia un problema non così grande e come la politica continui a inventarsi cazzate sull'immigrazione. Sì, abbiamo dei dati del 2008 nei quali si parla di due quartieri di Roma, dell'Esquilino e di Tor Pignattara. Qui nel 2008 si è discusso molto di studenti immigrati, infatti i genitori degli studenti italiani tendevano a iscrivere i figli in scuole di altri quartieri anche molto lontano per la troppa presenza di immigrati. Beh, io penso che l'immigrazione si è letta soprattutto nelle scuole, si è letta in una chiave assolutamente distorta, cioè sbagliata, perché non c'è niente di meglio che educa più di una multietnicità e un esatto. Multicultura, perciò vivere in un ambiente in cui ci sono ragazzi di tutto il mondo, delle più svariate culture, è una cosa diciamo inestimabile, nel senso che aiuta a crescere più di qualsiasi altra cosa. Infatti si tende anzi a ghettizzare il fenomeno dell'immigrazione e degli stranieri, e così si dice, la Gelmini ha sempre dichiarato che avere troppi stranieri all'interno delle classi rallenta anzi il resto della classe, rallenta l'insegnamento per tutta la classe, perché gli stranieri dovrebbero stare in classi separate da soli, perché sono ritenuti in qualche modo inferiori perché ci ritardano, invece non capiscono che è proprio un accrescimento culturale quello che ci possono dare. Questa è una vera e propria ghettizzazione. Sì, tra l'altro è una ghettizzazione che parte già dalle scuole elementari, quindi gli studenti di età dagli 8 anche 12 anni si trovano con amici che sono migranti, che vengono ghettizzati in maniera così, possiamo dire, tranquillamente razzista, in quanto si pensa che non sia possibile riuscire a garantire un'educazione della lingua italiana ai ragazzi italiani se sono presenti nella stessa classe il più del 30% degli immigrati stranieri, cioè di ragazzi stranieri. E allora vai con la next tune, Blues Brothers, Minnie the Moocher. She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. In Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, ho. She had a dream about the king of Sweden. gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times. I leghisti pochi anni fa dissero: un immigrato per diventare italiano deve pagare le tasse, non deve rubare, deve conoscere la lingua italiana e la storia. E Benigni commentò molto ironicamente: beh, proprio quello che non vogliono fare gli italiani. A parlarci di questa situazione, di questi esami che bisogna fare per diventare italiani, in cui non bisogna solo dimostrare di conoscere la lingua ma anche la storia, qui in onda con noi un ragazzo, uno studente di una scuola di Roma, della seconda generazione di migranti, che ha compiuto da poco la maggiore età e perciò dovrà fare questo esame per ottenere la cittadinanza. Allora, ci sei? Sei in onda? Pronto? Scusate, c'è qualche problema tecnico. Continuiamo ad ascoltare Hit the Road Jack di Ray Charles e ci risentiamo tra poco. Finalmente abbiamo il collegamento con un pischello della seconda generazione di migranti di un nuoto di liceo di Roma. Allora, ci sei? Oh, ciao. Ciao, volevamo sapere da te un po' come vivi questo momento particolare, diciamo, vista la situazione un po' critica che si è venuta a creare in Libia e in Egitto in questo momento. Come la senti tu dal tuo punto di vista? Guarda, la situazione è veramente delicata, visto che io ormai, vabbè, diciamo che comunque sono nato qua, i miei sono venuti qui per lavorare e in qualche modo vivo questa situazione un po' veramente coinvolto, visto che la Libia e la Tunisia, la caduta di questi dittatori ha portato quindi a quello, diciamo, quasi un allarmismo verso questo esodo di migranti. E in qualche modo mi preoccupa soprattutto il fatto che questo possa portare appunto a una paura verso il migrante, quasi un invasore. E in questo senso io ormai di seconda generazione mi sento coinvolto direttamente, visto che comprendo i stessi migranti che, come i miei genitori, sono venuti qua per fuggire dalla miseria, per fuggire dalla guerra. E niente, io come giovane appunto della seconda generazione penso che sia importante anche portarlo nelle scuole questo problema, visto che noi per esempio l'anno scorso abbiamo parlato proprio del viaggio che vivono i migranti per arrivare fino a qua, soprattutto per capire quanto sia crudele il comportamento delle nostre leggi in questo senso. Per esempio l'introduzione del reato di clandestinità, una cosa assurda, mettere in carcere qualcuno che è venuto solo a cercare una vita migliore. E riguardo a questo problema vorrei citare una storia che ho visto in un film, recentemente, un film di Wim Wenders che si chiama Il Volo, che racconta un esempio di integrazione che mi ha colpito molto. Racconta la storia di alcuni comuni della Calabria, la stessa Calabria che abbiamo visto nel caso Rosarno, che però nel 1998 si trova con due problemi, e qui i sindaci hanno potuto, secondo me, rispondere in modo molto umano, direi. Da una parte lo spopolamento delle case che vedevano i calabresi di quei posti andare a scappare, andare al nord a trovare lavoro, e il problema dei migranti. Nel 1998 infatti a Riace sbarcarono 300 curdi sui stessi barconi che adesso vediamo portare tunisini, eccetera. E visti questi migranti, il sindaco Mimmo Lucano trova una soluzione, perché non riusciva più a vedere le sue case, le case della sua città di Riace, il comune di Riace, vuote, e pensò invece di mandare questi migranti nei centri di accoglienza e fargli fare la stessa fine di molti migranti che vengono chiusi in ECE per poi essere spediti nelle loro patrie da dove sono fuggiti. Ha preferito accoglierli nelle case, ridando vita al suo comune. Così fecero pure gli altri sindaci di Caulonia, Badolato, eccetera. Senti, noi sappiamo che tu hai da poco compiuto la maggiorità e quindi hai l'età per prendere la cittadinanza. Ci puoi dire un po' come sono i procedimenti per questo documento e quali sono le differenze con gli altri paesi? Guarda, infatti un altro problema dell'integrazione qui è non esiste la ius soli, per cui io, essendo sia nato qui, non sono dalla nascita cittadino. Esatto. Ma devo aspettare una certa età, quindi la maggiore età, o comunque un certo numero di anni di permanenza qui, per chiedere la naturalizzazione. Infatti adesso ho 18 anni, devo fare un po' di pratiche per dimostrare che comunque sono stato 18 anni qua, ho studiato, e in questo modo tra una pratica e l'altra spero di riuscire a prendere la cittadinanza e quindi finalmente far parte di quella seconda generazione che è nata qui. E questa è la differenza di quanto magari accade in altri paesi europei come la Francia, l'Inghilterra, che vabbè, al di là delle differenze diciamo storiche, che comunque ricordiamo che in Francia ha avuto colonialismo, Algeria, Tunisia, per cui molti sono comunque trasferiti, però lì è diverso, cioè anche la Germania, per esempio, basta vedere la nazionale disco su tutti i turchi da un po'. Però niente, spero. Allora, grazie mille, è stato veramente un piacere. Grazie a voi. A te. Oppure ti qualcuno aveva un'altra domanda da farti? Vogliamo fare un'altra domanda? Beh sì, scusami, io volevo chiederti, ma tu sei nato in Italia? Sì, sono nato in Italia. Volevo sapere come vivi il fatto che pur essendo nato in Italia, come tutti i cittadini italiani, non hai la cittadinanza da subito. A me sembra un fatto un attimo assurdo. Sì, ma infatti è proprio un problema che in qualche modo anche a scuola magari, tipo, cioè l'integrazione, il fatto che io abbia la stessa formazione di una persona che magari ha solo differenza di me, ha avuto i genitori italiani, in qualche modo può, secondo me, può anche portare integrazione in modo un po' più discriminata, in questo senso, per cui speriamo che cambi presto. Io fondamentalmente infatti la vivo un po' così, come certo, un po' limitato nel mio, quasi italiano, perché cioè, alla fine mi sento italiano, sono andato qui, sono cresciuto. Vabbè, sono chiaro, 18 anni in Italia basta, ne avanzano per diventare italiano, insomma. Vabbè, è assurdo anche semplicemente esserci nato, certo. Guarda, ti ringraziamo ancora moltissimo, ti auguriamo buona fortuna. Grazie e... Continuiamo la trasmissione con l'ascolto di Kitty Daisy and Lewis, Polly Pat the Catty On. Oggi, martedì 1 marzo, è stato convocato per le 4:30, quindi qualche minuto fa, a Piazzale Aldo Moro, un corteo per parlare ancora una volta dei diritti di migranti, dei CIE e di tutti questi temi di cui abbiamo trattato fino a poco fa, di come i migranti siano accolti in Italia, vivano la loro situazione qui. E, come era stato fatto l'altro anno, una giornata in cui i migranti nello specifico possano far sentire la propria voce insieme a chi si è mobilitato nell'autunno e continua a mobilitarsi anche adesso. Quindi adesso cercheremo di sentire, di avere una corrispondenza dal corteo che starà iniziando a concentrarsi adesso. Ricordiamo, per chi fosse a Roma, era alle 4:30 a Piazzale Aldo Moro, comunque siete sicuramente ancora in tempo. Bene, dovremmo avere un collegamento dalla piazza che, come dicevo prima, immagino si stia concentrando adesso. Ci senti? Sì, Francesco, vi sento, forte e chiaro. Perfetto. Dunque, vi state concentrando adesso, come dicevo prima, cominciando ad esserci un piccolo affollamento di persone, poiché la pioggia comunque, come sempre, dà gravi fastidi. Ad ogni modo, piano piano si stanno aggiungendo sempre di più gruppetti di immigrati e non solo, anche di italiani, giustamente. La presenza, comunque, il numero c'è, ci sta un bel po' di persone, bandiere, una manifestazione colorata, allegra, ci sono musica, tamburi, quindi niente di non male. Ah, perfetto. Beh, poi, come dicevamo prima, poco fa, comunque il concentramento è andato per le 4:30, ci sarà, immagino, fra ancora qualche minuto, continueranno ad arrivare persone. Sì, probabilmente tra una mezz'oretta dovrebbe aver preso corpo, diciamo, la manifestazione vera e propria. Certo. Vuoi ricordarci il percorso che farete, così chi sta ascoltando la radio magari vuole raggiungervi? Sì, allora il percorso è, diciamo, classico, si parte da Piazza Aldo Moro e l'intento finale è di cercare di raggiungere Piazza dell'Esquilino. Quindi il movimento probabilmente si passerà per San Lorenzo, comunque sono piccoli dettagli ancora da definire per problemi logistici, diciamo. Perfetto. Ad ogni modo, appena avrò notizie, diciamo, ti richiamo io. E vuoi ricordarci a tutti quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento, con che slogan, con che voglia si sta riscendendo anche oggi in piazza, come in realtà era stato fatto anche l'altro anno, sempre sì, il primo marzo? Quest'anno si sta scendendo come ogni anno il primo marzo, oltre a rappresentare comunque i diritti che hanno i cittadini immigrati e non solo quelli italiani in Italia, anche per cercare di ricordare e rilanciare le lotte che i vari popoli stanno facendo adesso, ricordando quello libico, quello tunisino, quello egiziano, per non dimenticare, perché siamo partecipi con loro e siamo solidali. Quindi è una manifestazione sia per gli immigrati che sono in Italia, sia per i loro connazionali che si trovano a vivere momenti estremamente difficili. Perfetto. Se ci stanno ovviamente altri aggiornamenti, cercheremo di ricontattarti. E se c'è qualcosa di particolare adesso a breve, sentiamo anche diversi slogan, se non sbaglio. Quindi, insomma, sembra che vi stiate concentrando bene lì, Aldo Moro. Sì, ci stavo. In generale sì, anche se ti sento male, poiché comunque non è che si sta in silenzio qua. Appunto, per quello dicevo, va bene, perfetto. Sì. Allora niente, ci risentiamo, buona manifestazione, ricordiamo a tutti per ora appuntamento a Aldo Moro, per un corteo si muoverà verso l'Esquilino, chiunque volesse raggiungerlo si stanno per mettere in movimento. Ti salutiamo di nuovo e ti ringraziamo, buon corteo, saluto a tutti. Figurati, grazie, ciao, a dopo. Ciao. E continuiamo il nostro percorso nel blues con John Lee Hooker, boom boom. Invece no, si è bloccato l'audio, il computer si è impallato. E allora, fra poco qui studio Le Ali di Vento, un gruppo emergente rap romano. Molto bravi ragazzi. Next Tuna Selecta. Vai John. Ricordiamo cosa sta succedendo a Bologna. In mattinata alcuni compagni hanno occupato l'atrio principale del centro di identificazione ed espulsione di Bologna e in questo momento si sta svolgendo un corteo, mentre nel frattempo alcuni ragazzi stanno cercando di intrattenere delle relazioni con la questura per cercare di risolvere la situazione. knocked me out. Ran off of my feet. How, how, how, how. Well, babe. Oh, babe. E allora, sono arrivati in studio, le ali di vento, bella regà, come state? Bella a tutti. Bella. Insomma, un gruppo rap emergente romano, nati da poco, hanno inciso le prime tracce da poco. Insomma, diteci un po' da cosa è nata la vostra voglia di fare questo genere musicale, cosa vi ha spinto? Allora, innanzitutto siamo nati tra i banchi di scuola, come molti gruppi romani, diciamo, stiamo in classe insieme, io e Matteo e... noi in arte, io sono Diusis e io Rudy, sì, i nomi ci sbagliano sempre quando andiamo. Vabbè, radio. C'è una storia però dietro a sti nomi, se, magari un'altra volta perché è troppo complicata. E pure il gruppo Le Ali di Vento, diciamo, nasce da, dall'unione di due termini che è un po' un gioco di parole, cioè sia le ali di vento, che sarebbe appunto le ali del vento, e poi in più nasce dal fatto che diventiamo le ali, cioè corretti, onesti, tutte, insomma, rispecchia un po' il nostro modo stile di fare rap, e la nostra concezione, che è, diciamo, è diversa da quella che è un po' da quella comune, da quella, cioè, comune, da quella, cioè, comune, cioè, cerchiamo di non omologarci con quello che è le caratteristiche, diciamo, comuni del rap, e cerchiamo di fare qualcosa di diverso, anche perché se si vuole, diciamo, emergere tra virgolette, certo, si deve fare qualcosa di diverso. Senti, vi siete, avete avuto modo di esibirvi da qualche parte? Abbiamo saputo al 51 a Roma insieme. Sì, ci ha presentato De Ura al 51 e sì, è stata da paura, devo dire, quella è stata una delle prime esibizioni live. Altre esibizioni live? Altre esibizioni abbiamo fatto, no, pochi pezzi in giro, proprio ai feste amici, da paura, per farci conoscere all'inizio. Senti, sentiamo se una canzoncina di sti ragazzi, che io l'ho sentita, sono bravissimi, sentiteveli pure voi. Come si chiama questa? Allora, questa qua è Un altro giorno, è il pezzo, diciamo, è l'ultimo pezzo di cui abbiamo fatto il video e diciamo la cioè abbiamo si trova anche 4 mesi su YouTube. Mazza. Le ali di vento, Un altro giorno. E niente, abbiamo saputo, avete fatto una collaborazione con una ragazza. Sì, è lei, ecco, di questa canzone. Andiamocela a sentire. Siamo pronti? Un altro giorno arriva in fretta e non t'accorgi che con un nuovo sole anche tu risorgi. Quei brividi d'eterno, vivili all'interno, e spera nel domani mentre fuggi dall'inferno. Si rima, due giochi e tre parole. Quello che tu eri prima non ha più valore, è la vita che va d'ore. Un sogno sul tastametro, gira il contatore, sballa ogni parametro, gira l'esistenza, gira ogni motore. Qual è la differenza tra l'amore ed il dolore? Gira il mondo, gira, ti fa uno strano effetto. Aspetti la sentenza, sai già qual è il verdetto. Nell'aria c'è l'odore di speranza e di vendetta, e l'ansia come il fumo si taglia con l'accetta. Eppure c'è la gente che lotta piedi al suolo, che sta su questa terra ma con le ali in volo, che guarda questa notte e non vede, è troppo nera, capisce a questo mondo che la luce è la preghiera. Eppure se imbufera tira forte, rema il doppio, la vela che si gonfia, la vita in uno scoppio. Un altro giorno arriva in fretta e non t'accorgi che con un nuovo sole anche tu risorgi. Quei brividi d'eterno, vivili all'interno, e spera nel domani mentre fuggi dall'inferno. Apri l'anima ed immagina che qui regni la pace, non c'è diga che ti argina, sei libero e capace di portare sulle spalle il peso della croce, di urlare a più non posso senza alcuna voce, di capire la realtà in quell'attimo soltanto, e capire solo allora la gioia che dà il pianto quando muto alla finestra la pioggia cade e cogli che insieme a quelle gocce piovono i tuoi sogni, e un fremito nel petto ti dice non sei il solo, che sogna ad occhi aperti e che cerca il suo ruolo, ti dice che dei sogni noi abbiamo ugual sostanza, la terra qui non basta, c'è il cielo nella stanza, levati dalla faccia col tuo triste sorriso, un sogno tu sei caccia come del paradiso, disegna un nuovo volto su quel tuo vecchio viso, e spera nel domani mentre ascolti questo inciso. Un altro giorno arriva in fretta e non t'accorgi che con un nuovo sole anche tu risorgi. Quei brividi d'eterno, vivili all'interno, e spera nel c'eri in ciò che vedi o lo superi e vai oltre. Intendi che se credi non ti sposti tu ma il mondo e al di là di questa coltre c'è un mondo senza tempo. Farai fiorire il cielo se spargi semi a vento. Se preghi per un sogno che è l'unica certezza, cancella dal tuo cuore la noia e la tristezza. Farai un mondo migliore cambiando da te stesso, levandoti quei panni che ti sei sempre messo. E tu ci svegli adesso e adesso piova a secchi. Un sogno ad ogni goccia, c'è un mare sopra i tetti. E adesso non invecchi e adesso è qui l'eterno. Tu insegui l'armonia mentre fuggi dall'inferno. Un altro giorno arriva, in fretta e non ti accorgi che con un nuovo sole anche tu risorgi. Quei brividi di eterno, vivili all'interno e spera nel domani mentre fuggi dall'inferno. Un altro giorno arriva, in fretta e non ti accorgi che con un nuovo sole anche tu risorgi. Quei brividi di eterno, vivili all'interno e spera nel domani mentre fuggi dall'inferno. Un altro giorno arriva, in fretta e non ti accorgi che con un nuovo sole anche tu. E allora, Le Ali di Vento, adesso live su 87.9 Radio Onda Rossa, Region Air. Ecco, c'è Storie dei Quartiere, eh? Next to una Storie dei Quartiere. Allora, sì, ok. Le Ali di Vento su Radio Onda Rossa. Oggi okay. È mai più. Ok, bella per tutti. Speriamo di no, cioè, no, infatti, quando volete che noi stiamo speriamo, qua oh. Infatti, speriamo pure la famosa esclusiva era. Speriamo pure di fare qualcosa insieme come avevamo programmato da lungo tempo. Però assolutamente sì. Da, magari, così riscamo pure un po' di roba. Ok, ci stiamo, no? Ci stiamo. Ok, ecco, certo. Crescevo tra i ragazzi che cercano la gloria. Crescevo tra i palazzi da Cipro fino a Doria. Crescevo tra le scale e la voglia di rubare. Questo posto la mia storia, parlo proprio di trionfale. Sono tante le persone a cui stringo la mano. Ad esempio per Brunone io sono ancora il nano. Quanti nomi sulla lista, gente pronta e fedele. In mano c'è una mista, io giù tutto il bicchiere. La mira quando stira sale, la cronaca è la stessa. Una gioventù bruciata per cui indire una messa. Pressa l'ansia sulla pancia, il fisico non tiene. Butta giù un'altra di gancia così brindiamo insieme. Sono storie di quartiere che narro con l'hip hop. La mia strada dissestata non ha nessuno stop. E se per caso o per fortuna un giorno sarò il top, resterò sempre me stesso come Jenny from the block. Fisso gente negli occhi che conosco da una vita e la vedo stare a tocchi quando esce con l'amica. Mi vedi in micra bianca di ronda per la zona. All'angolo una banca, di fronte c'è McDonald's. Con Fefi al panno verde, due stecche e tre partite. Lo sa che intanto perde, il nano è dinamite. Come quello che racconta vale più dell'oro azteco. Lui ti smonta e ti rimonta come fanno con i Lego. Vigile legge della giungla, vedi in giro anche le piovre. La notte qua è più lunga come quando fuori piove. E non parlo di reality, questo non è un gioco. Non ho scuse, non ho alibi e di show ce ne sta poco. Sono storie di quartiere che narro con l'hip hop. La mia strada dissestata non ha nessuno stop. E se per caso o per fortuna un giorno sarò il top, resterò sempre me stesso come Jenny from the block. Crescevo in una Roma fatta di gente per bene. Crescevo tra ragazzi con cui stavo sempre insieme. Crescevo in un quartiere che prima era diverso. Quel monte impastato dal mare era sommerso. E diverso sono io, immerso nel ricordo, ripercorro quella pace che vivevo tutto il giorno. E mi piace ricordare le serate col pallone, gli strilli delle madri, secchi d'acqua dal balcone. A scuola dalle suore, i gessetti e la lavagna. Crescevo in una zona che prima era campagna. Degli amici dell'infanzia non dimentico nessuno e non me ne scorderò se diventerò qualcuno. Sono storie di quartiere che narro con l'hip hop. La mia strada dissestata non ha nessuno stop. E se per caso o per fortuna un giorno sarò il top, resterò sempre me stesso come Jenny from the block. Sono storie di quartiere che narro con l'hip hop. La mia strada dissestata non ha nessuno stop. E se per caso o per fortuna un giorno sarò il top, resterò sempre me stesso come Jenny from the block. Oh. E allora, bellissima questa shun di Le Ali di Vento. Trovate su anche su YouTube, eh? Anche su YouTube anche trovate su YouTube. MySpace, Le Ali di Vento. Ricorda, Gaglie, grazie. Gaglie, grande acclamazione. Grande acclamazione nello studio di Region A, Radio Onda Rossa per Le Ali di Vento. E allora, fatecene sentire un'altra? Sì, dai, sì. Come si chiama la next? Allora, la prossima è un freestyle, diciamo adattato su una base di Eminem. Cioè, sentirete anche il ritornello. Comunque, abbiamo provato ad adattare, insomma, una cosa un po' particolare. E vorremmo, vabbè, e noi le cose particolari ci piacciono. Infatti, se papà... Penso quelle... quando volete, se... me la sento. Vabbè, mo a base capiremo attaccate il nigga. Questi siamo noi, Questi qua non siamo noi. Questi sono un po' più famosi, purtroppo siamo non siamo noi. Speriamo fra qualche anno. Però il flow ci stiamo, ci stiamo. Grazie, grazie. Mamma mia, addirittura. Questa spacca ancora di più, perché scrive su ste basi ancora più facile. Gli americani sono una base proprio che voi. Prendo un beat e lo stravolgo, poi mi colgo di sorpresa. Sono qui alle 3 di notte, ciglia cotte e luce accesa. Mi chiedi che mi pesa, ti rispondo, questo mondo non vedrai mai la mia resa, perché lotto fino in fondo. Dal fondo del boccale sale a galla ogni mio amico Luca Nega, se ne frega che mi prega per un litro. Ormai sono impietrito, non c'è nessuna scusa, questa è carta straccia e tu hai la faccia di Medusa. Sono a un bivio, qua non vivo, non so più che cosa scrivo. Specchio quel me stesso e nel riflesso penso spesso a come agivo. Solo pezzi di carta e parole nella tasca, le uso come usava le pistole Balanzasca. Buco peggio di una brasca che ti casca dalla canna, brucia come paglia dalla maglia sulla tasca che si infiamma. Non c'è calma in giro, non farne un dramma, alzo il tiro con la viro, miro e tiro, questo è karma. Oh, scarabocchio foglio, ma subito lo straccio. Non so più quello che voglio, non so più quello che faccio. Sento le rime stringermi si attorno in un abbraccio, ma non riesco a sciogliere da me se il cuore mi è di ghiaccio. E taccio, silente, nel buio del solaio, ma non scaccio dalla mente ogni mio fottuto guaio. Con l'ipoppio dimostro tutto ciò che sbaglio, ma non ho più inchiostro dentro al calamaio. E in queste sere nere non ho ferro nelle vene, ormai sono diventate cera tutte quante le candele e le vele sulla nave. Sono quelle di Teseo, tutto il re vestito a lutto sfila un funebre corteo. Sono reo delle mie colpe ed ho la palla al piede, sale a galla la mia sorte dall'abisso veri siede. La paura più profonda, quella che non si vede, gronda la fronte immonda ma non sfonda la sua sede. Questa angoscia ma soltanto una fame di violenza. Ok, questo era un pezzo preparato. Era un pezzo preparato da noi, così, insomma, freestyle. Solo per noi. Sì, solo per voi, solo per Radio Onda Rossa. E niente, se vogliamo fare. Se c'è tempo, se vogliamo farne una. Luci della ribalta. Il tempo, vogliamo, il tempo è poco, ma. Se vogliamo farla. Se quindi famola. Se la volemo fare, famola. Allora, ok, perfetto. Allora, famo pure Luci della ribalta live. E allora, le ali di vento, Regionair, le ali della ribalta. Grazie a tutti quelli che ci hanno voluto qui. La luce della ribalta, perdono. Dai, tranquillo, tranquillo, ci hanno pure le ali della vita. Diagrama, sgranare gli occhi solo per la grana, cercare facili sbocchi, avere fame della fama. Fai qualunque cosa per una posa su di una rivista, poi finisci sulla lista di chi è in vista per una settimana e ti frana il mondo addosso e ti ritrovi dentro un fosso. Più provi a stare in piedi più ci credi e più vieni percosso. Ti vuole il sangue nelle vene, sei percorso dal rimorso che ti corrode col suo morso e non c'è nessuno in tuo soccorso. Dalla realtà che mi sta attorno io mi sento differente, io disegno il mio contorno di giorno in giorno lentamente. Lascio un segno sottile ma lo lascio ovunque vado, cito tacito, cito il mio motto e mi sto passai di rado. Sarò pure recidivo ma non mi piace essere cattivo, dimmi che ci vuole a mandar tutti a fanculo mentre scrivo. C'è chi frega il mio denaro, è amaro il suo boccone. Va in giro da Corsaro con il fare da spaccone ed è un prodotto indotto dalla televisione, mentre accatasta soldi milione su milione e non pensa alle persone, filingrana quel suo amore. La sua anima è savana dove non cresce fiore e il successo l'ha cambiato, lui non gli ha cambiato volto. Ora passa per la radio ma non è cambiato molto. Colto o incolto conta solo la sua gloria, lo sai che per lo stolto conta solo la vittoria. Luce della ribalta per chi vuole aver successo, per chi vuole tutto e lo vuole proprio adesso. Poveri illusi, signor tecnico mi scusi, lasci che queste luci illuminino solo e soltanto Ruti e Diusis. Luci della ribalta per chi vuole aver successo, per chi vuole tutto e lo vuole proprio adesso. Poveri illusi, signor tecnico mi scusi, lasci che queste luci illuminino solo e soltanto Ruti e Diusis. La fame è come l'acqua, scorre veloce e poi ristagna. La fame non è di chi l'ha, la fame è di chi se la guadagna. Prima ti riempie di coccole, poi ti abbandona, sporca cagna. Tante luci zoccole come lucciole in un prato di campagna. Gente che si lagna di voler scalare una montagna, e seppure arriva in cima prima o poi cade giù come valanga. Si fa pure l'encomio a chi per un patrimonio venderebbe tutto ciò che ha, persino l'anima al demonio. Siamo in mano umani disumani, gente che sfrutta. Ti portano sui palmi, poi li battono se ti vedono alla frutta. Che brutta cera, preferisco gli avanzi di galera. Tutta una turba di gente furba che segno sulla lista nera. Scrivo nomi, cognomi e pure i soprannomi. Non mi faccio far le scarpe da nessuno, manco dagli gnomi. E non mi arrendo pur sapendo che nulla sarà vero, ma nel frattempo non mi vendo, mica son renato zero. A zero stanno le chiacchiere, la vita è una tormenta. Qui si tenta ma si stenta e fanno 30 sotto zero. C'è chi si addormenta con un sogno sotto al cuscino, ma al mattino si risveglia e non ha più niente vicino. E so avuto sogni di gloria, caro pubblico mi scuso, è sempre la stessa storia, prima illuso poi deluso. Dentro questi panni esplodo e mi sto stretto. La fama non la voglio, lasciatemi il rispetto. Dentro al portafoglio due spicci ed un santino. La fama è un bel cavallo ma senza il suo fantino. Matricole e meteore in cerca di successo. Non cambio per la fama ma cambio per me stesso. Io sto qui e resisto, non stimo la mia stima. Un bip a chi l'ha visto famoso il giorno prima. Per loro la conquista è alzare il tuo suetto. Per me è che Annalisa dica che le batto in petto. Luci della ribalta per chi vuole aver successo, per chi vuole tutto e lo vuole proprio adesso. Poveri illusi, signor tecnico mi scusi, lasci che queste luci illuminino solo e soltanto Ruti e Diusis. Luci della ribalta per chi vuole aver successo, per chi vuole tutto e lo vuole proprio adesso. Poveri illusi, signor tecnico mi scusi, lasci che queste luci illuminino solo e soltanto Ruti e Diusis. Grazie a Radio Onda Rossa. Grazie a tutti. Grazie davvero, grazie a tutti, quanti. Grazie a voi, facciamo i complimenti e vi auguriamo tanta buona fortuna per il vostro futuro. Insomma, siete giovani come noi che aspirano a un sogno. Insomma, non è così? Sì, come no, anzi, andateci, cioè, supportateci, qualsiasi cosa. Il MySpace, myspace.com, le ali di vento, slash le ali di vento. Slash le ali di vento. Anche su Facebook le ali di vento, la pagina di vento, su Facebook, sì. E niente, ora uscirà a breve il CD. Comunque trovate il nuovo video su YouTube un altro giorno. Ciao a tutti, bella. Grazie mille, ciao, a tutti, grazie, ciao. A voi. Grazie. E niente, perciò per ricollegarsi al, insomma, all'appunto del CIE di Bologna, dove sta avvenendo una protesta sia dai carcerati, tra virgolette, perché insomma non si vogliono chiamare così, ma in realtà è questo che sono. E anche la protesta portata avanti dai collettivi delle università di Bologna. Ricordiamo che il 12 marzo c'è un presidio sotto al fuori del CIE di Ponte di Ponte Galeria qui a Roma. Sì, ci sarà l'appuntamento. Ci sarà appunto l'appuntamento alla stazione FS di Ostiense alle 14 per prendere il treno tutti insieme, come si fa sempre. Come abbiamo detto già oggi, appunto, rilanciamo questo appuntamento. In questo momento si sta svolgendo un corteo su temi molto simili. Per chiunque volesse raggiungerlo, cerchi di restare magari in contatto con la radio o di telefonare allo 0649 1750. E da Radio Onda Rossa 87.9 adesso vi salutiamo e ci sentiamo presto. Ciao a tutti e vi lasciamo al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ciao a tutti e ci lasciamo con tornando alla musica degli immigrati con Charlie Parker, Summertime.